Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Un saluto da Anna Marino. Oggi parliamo di ambiente, che conviene e fa fatturato, oltre che abbattere i costi. Utopia? Non è più così. Se le idee anticrisi delle piccole e medie imprese, oltre a combattere la difficile situazione economica, pensano anche all'impatto ambientale e ci fanno risparmiare. Sono troppi gli sprechi, soprattutto quelli creati da aziende che inquinano. Qui le idee sono tutte concentrate verso un business pulito, che in tempi di crisi è ancora vincente. Obiettivo: impatto ambientale ed estetico zero. È partita da edifici a bilancio energetico zero la Guzzini Engineering, www.guzziniengineering.it, ed è arrivata alle pensiline fotovoltaiche, un tetto sostenibile che ricopre ad esempio le aree parcheggio. Pensiline multifunzionali, dalla ricarica delle batterie per veicoli elettrici, per il trasporto privato, pubblico e merci, nuova frontiera per la mobilità sostenibile, alla produzione di energia elettrica da fonte solare, ai sistemi di illuminazione alimentati con energia alternativa, ma pensiline fotovoltaiche quasi invisibili in paesaggi e panorami mozzafiato come N Park al Parco del Conero. Dalle Marche, Francesco Guzzini, 63 anni, laureato in ingegneria a Bologna, a capo di un'azienda innovativa da sempre che punta non solo sulle sue forze, ma anche su quelle del distretto e su quelle dei giovani. Una squadra di 30-40 anni che lavorano per lui e racconta come è nata l'estetica della green economy che vuole battere la crisi. È nata dall'aumento dei costi dell'energia di ogni forma, sia dal punto di vista elettrica, sia dal punto di vista termica, che dal punto di vista dell'acqua, perché anche l'acqua è un'altra risorsa e bisogna usarla con molta parsimonia. Quindi dall'aumento di questi costi e dal fatto che questi costi incidono in maniera sempre più prevalente alla fine sul prodotto finale, che sia prodotto che sia servizio, abbiamo pensato che bisogna assolutamente abbattere i costi dell'energia. Ecco, questo grande principio, che non è solo un principio, ma anche tocca le tasche degli italiani, come lo avete realizzato? Qual è la vostra idea anticrisi? L'abbiamo realizzato ripensando completamente l'edificio. L'edificio non può essere più pensato a compartimenti stagni, in cui la parte architettonica è una funzione, la parte strutturale un'altra, il vestito esterno un altro e la parte strutturale e impiantistica un altro. Bisogna pensare all'edificio nella sua globalità, nella sua unitarietà. In questa maniera si riesce a fare un edificio estremamente performante dal punto di vista energetico e a quel punto lì, dal punto di vista impiantistico, i costi si riducono automaticamente. Ecco, questo edificio ad alta sostenibilità ambientale, a design, diciamo, pensato in modo tale da essere anche esteticamente bello, come si chiama, com'è e come si realizza? L'edificio noi l'abbiamo in maniera estremamente sintetica definito edificio a bilancio energetico zero, ma alla luce di tutto questo dobbiamo pensare che se il progetto è unitario non costa assolutamente di più farlo bello, perché la bellezza è un valore assoluto a cui bisogna assolutamente tener conto presente, in modo che impatti in ambiente in maniera sempre di meno, sia dal punto di vista dell'impatto visivo, sia dal punto di vista dell'impatto energetico. Che cosa fate in pratica con questi edifici? In pratica con questi edifici pensiamo l'edificio nella sua globalità, in modo tale che esso stesso sia un edificio performante, significa cioè un edificio in classe A. E dal punto di vista impiantistico, usando forme di energia rinnovabili, ad esempio il fotovoltaico, questo che sia un valore dal punto di vista anche architettonico e non costruisce un impatto ambientale. Molto spesso si richiede anche per la vendita e per la transazione in molte regioni che vengano affissi questi cartelli in cui c'è scritto edificio energetico di classe A, B, C. Ecco, quindi voi praticamente li costruite già da zero con questo tipo di caratteristiche, pannelli e via dicendo? Assolutamente, in maniera integrata. Cioè, le tecnologie oggi, come l'architettura, le strutture e gli impianti tecnologici, non possono essere più pensati in maniera indipendente l'uno dall'altra, ma costruisce un tutt'uno. Dopo l'edificio a bilancio energetico zero, anche la mobilità sostenibile. Che cos'è il sistema N-Park? Il sistema N-Park è un sistema di parcheggi a impatto ambientale estremamente limitato. Non è un discorso più speculativo, ma abbiamo approfittato del discorso del pannello fotovoltaico per poter fare una pensilina che sia un'opera di architettura, un'opera che si inserisca in qualsiasi tipo di contesto urbano o rurale, in modo che costituisca un elemento di arredo e non più un elemento di impatto, come abbiamo visto. Per questa cui... è una pensilina fotovoltaica, quindi praticamente che cosa produce? Energia? Che cosa produce? La pensilina Antarte è una pensilina fotovoltaica, produce energia elettrica fotovoltaica e ad essa è connesso spesso una colonnina di ricarica per le macchine elettriche. Chi vi ha aiutato? C'è stato un aiuto esterno? Come avete realizzato questa idea anticrisi o avete praticamente utilizzato le vostre energie? Dal punto di vista economico abbiamo usato esclusivamente nostre energie, dal punto di vista del know-how, della tecnologia, le nostre e tutte le aziende della zona, perché noi per fortuna siamo in una zona con aziende nel settore sia della meccanica che dell'elettronica estremamente evolute. Quindi fondamentalmente siete riusciti a fare rete e a creare un'innovazione mantenendo quella qualità del distretto? Assolutamente sì, con tutte aziende marchigiane, questo credo che sia un elemento di orgoglio delle Marche, dell'economia locale, perché mettendosi assieme si può creare assolutamente dei valori aggiunti notevoli. Mi sto rendendo conto che avere un passo avanti rispetto a quello che è il mercato credo che sia la carta vincente per il domani. Quando noi parliamo di innovazione si pensa sempre che sia una invenzione, invece l'innovazione è passo dopo passo, realizzazione dopo realizzazione, si tratta di introdurre sempre un qualche cosa di nuovo, mai uguale a quello che c'era prima. Un'altra lampadina che si è accesa, anche qui il paragone è azzeccato, gestisce gli impianti UMPI, www.umpi.it, fondata nel 1982, specializzata nel progettare e realizzare sistemi intelligenti basati sulla trasmissione di dati su linea elettrica, onde convogliate. In concreto, per esempio, porta connettività attraverso lampioni intelligenti che forniscono servizi di wifi, videosorveglianza, advertising interattivo, nel pieno rispetto dell'ambiente del risparmio energetico, fino a un 35-50% per le amministrazioni pubbliche, senza contare i risparmi sui costi di manutenzione, minori emissioni di gas nocivi, sfruttando le reti elettriche esistenti. Il come e il perché di questa idea anticrisi, che è sbarcata anche all'estero, li racconta Luca Cecchini. La nostra idea anticrisi parte dalla nostra ricerca, che è sempre stata fatta in questi anni, di veicolare attraverso le reti elettriche esistenti informazioni e dati. Attraverso questi studi, queste ricerche, siamo riusciti ad aggiungere a un'infrastruttura vecchia, diciamo, come quella dell'illuminazione, tantissimi servizi che possono far sì che i cittadini e la società stessa possano migliorare senza dover creare nuove infrastrutture, nuovi cablaggi, quindi nuovi costi, nuovi disservizi per la comunità. Che cosa offre la vostra idea anticrisi ai cittadini? La nostra idea anticrisi offre la possibilità di avere dei servizi, wifi, monitoraggio traffico, monitoraggio rifiuti, videosorveglianza, capillare su tutta la rete cittadina senza dover aggiungere nuovi cavi. È una ricetta anticrisi verde e di risparmio, perché? Perché noi partiamo da un concetto che la sostenibilità è il primo tema che qualsiasi amministrazione e qualsiasi società deve affrontare e sta affrontando oggi. Attraverso il nostro sistema si risparmia il 35% di costi energetici e si ha una grossa ottimizzazione nella manutenzione. Con questi risparmi offriamo alla pubblica amministrazione la possibilità a costo zero di offrire una piattaforma di servizi appunto per la società di uso comune. Pensiamo solamente al wifi che molto spesso viene richiesto dalle città, ma che non è così capillare perché si dovrebbe appunto cablare l'intera infrastruttura cittadina e le strade per poter poi averlo in maniera fruibile e anche gratis da parte di tutti i cittadini. Vantaggi per i cittadini, vantaggi per le amministrazioni, ma come ci siete arrivati a mettere in piedi questa idea? A voi da dove è arrivato l'aiuto? Ma noi non abbiamo avuto nessun aiuto particolare, perché l'aiuto ce lo siamo dati da soli, nel senso che nell'arco della nostra storia ormai sono 30 anni, quest'anno facciamo 30 anni di storia, la ricerca e sviluppo ha avuto sempre un peso preponderante, quindi abbiamo investito sempre molto in un settore interno di ricerca e sviluppo che ha portato piano piano ad avere tutte queste novità e a sviluppare idee nuove che molto spesso nascono anche dal confronto con la stessa clientela e comunque anche da una visione della società, del mondo, che molto spesso hai e che cerchi di esprimere attraverso queste tecnologie. Ecco, quali sono stati questi investimenti nella ricerca? Da dove sono arrivati i soldi, che ovviamente derivano da un vostro autofinanziamento, e a chi vi siete rivolti per avere un cervello che pensasse delle innovazioni che si innestassero su una storia aziendale, quindi vi facessero ripensare un po' il vostro settore, ripartire in uno stato di crisi anche con la produzione? Noi attingiamo dal punto di vista del know-how a una formazione interna molto, diciamo, definita e puntuale. Ovviamente i ricercatori non sempre per motivi didattici arrivano preparati, quindi la nostra formazione tende a farli formare e capire quello che vogliamo fare. Chiaramente per sviluppare appieno le nostre tecnologie abbiamo una sinergia grossa con tanti centri di universitari di ricerca, quindi da Bologna a Pisa, con centri anche specializzati e associazioni che hanno dei loro sviluppi interni su certe tematiche, tipo le telecomunicazioni, per cui cerchiamo di, con un mix di nostre competenze e di competenze esterne, che però riusciamo a fare nostre, di creare e sviluppare idee per poter diciamo, scavalcare questi momenti di crisi, ma più in generale per poter tecnologicamente andare avanti e fornire sempre delle novità.